Presso la reggia ove il piacer risiede, giace vasto giardino, e torbido reo si muove appena per aura densa e grave. Dimmi quel reo donde deriva. Ascolta, deriva da quei pianti che sparge il mondo in di foglie avanti. Giunge quel rio nel mar, manca per via, perché le sue fine e le può un sentiero pleo. E nel pianto dei giusti ostine che in vederne sembrano vie.